Lucca! Lucca, sei premuto e quel microfono! CQ canale 10? Marco, ci sei Marco? Ah? Che me l'ha venduto un po' più caro, perché costa di meno. Sì, vabbè, quando l'ha preso lui costavano, insomma, Tony. Questo che sia un frequenzimetro, sì, ma pare chi non lo vede 100 euro, probabilmente c'è soltanto un frequenzimetro. Ha detto, no, no, io vedo tutto insieme, 100 euro per la più con la canale, non me ne posso fare. Non ne fai nulla, non ne faccio niente, ormai, no, non ne faccio nulla, tutto roba da... ma, oh yeah. Cazzo, ho visto su internet, se li sono venduti tutti. Fuori, vedi, è diverso, rispetto di più i rovi e Murtuccio. No, no, anche fuori così, Tony. Lo vedo io lo stesso, non c'è più nulla, perché ho sentito questo amico mio che parlavamo, a Baracchino, anche lì è morto uno, non c'è più nessuno. Ormai, tutto via internet è fatto, è buono. No, adesso c'hanno questi paltacchi, ma come è piccato? Tramite il telefono c'è una chat che si modulano così. Sì, c'è anche la chat, come si chiama, mi della fare del genere, insomma, e trovate telefonino, tu fare con uno e con l'altro, con camionisti, svizzera, tutte le parti. Sì, quello lì sto dicendo, e parli con tutti, i colleghi se stanno lì, a te ne hai avuto. Meglio, e ti so che dove sei tu e dove lui. E l'ho visto, e l'avevo sceso con l'applicazione, poi mi sembra giù cancellata. Se l'avevo anche io l'applicazione sul telefono, sai che te ne buttava giù la batteria. C'è un po' di propagazione. Vento freddo che maestrale, vabbè, un po' di cazzo, non ci ho veduto in quel tempo. Lascia perdere che cazzo mi ha preso di vento stamattina, per carità. Lo so, ma noi, l'avvento che c'era maestrale comunque, ma tanto è freddino, cavolo. Chi è che vuole entrare? Quindi una moccantina sotto. Ho visto Antonio Mopolo poco fa. A chi? Antonio Mopolo. Hai sentito? L'ho visto, io ero lì alle poste e alla torcia c'era anche Monica, non sono fatto, se l'ha mai data. Dai, ma che sei la pancia mia. Monicuzza. Eia. Vabbè. Ma quanti siete a camminare? Vabbè, non so, più camminato adesso sono magnai, sabato scorso era proprio di punti, non ci andrò mai più là, perché da un'ora e mezzo ho preso intanto composto il calamare, ho detto scusi, ma questi calamari li ha presi dall'acquario, anche da 20 minuti che non riuscivo a compicchino qua a pochetta. Ma in quale siete andati? Quello di fronte alla strada? Quello che ci di fronte alla rotatoria, dopo lo potete ignuccio. Ui, mamma mia, cazzo, proprio da uno siete andati. Noi siamo andati, ci ha mandato lì, non eravamo roba di zitto, ma solo, ci ha fatto vedere anche un capo di pizza. Ho detto più a Torino, non ci vengo più qua, Anche Andrea è quello che andiamo insieme, che ho fatto amicizia, un tipo World Cup, è un occhio cieco, che ho gente lavorando. Tanto è anche 1,90, è gamba però, E niente, ci ho lamentati tutti, la verità. Adesso siamo invece sabato, questo sabato a cena, non so neanche dove cazzo è, al centro azzurro, che c'è lì, ve le porto, ma e lì era un locale, era come sotto, sopra, boh. Allora, se al centro azzurro, prima c'era un disco palli, ed è dove c'è, praticamente dove c'è la palestra, visto là dove siamo andati per fare il passaggio per quella macchina tua, ti ricordi? Piano. No, tu quando sali, ma non passi da lì dove siamo saliti noi, dall'altra parte, c'è un'altra scalinata, vicino al coso dove vendono il caffè, vendono le bibite, c'è un'altra entrata, c'è una scalinata che sali su. E dove rimane questa scalinata? Ma al centro rimane questa scalinata, più avanti? Sì, più o meno quando entri con la macchina, non ci sono i parcheggi. E lì c'è un'altra scalinata dove uguale a dove siamo saliti per andare a fare la... sulla a fianco c'è un'altra scalinata che va su, che ci sono tutte le ci sono le palestre, ci sono i cosi delle assicurazioni, sicuramente non hanno fatto lì il locale. Quindi sarebbe il primo piano, ma uè. E il piano rialzato, dai, una rampa che fa, primo piano, sì, dai. Vabbè, lo vedremo, dai. Si paga 15 euro, cioè poteva papà da mangiare? E cosa c'è? A te parte. Allora, guarda, fammi arrivare sul menù e te lo dico subito. Allora, andiamo sui messaggi. Ok, cerchiamo su Antonella. Allora, vediamo un po' in Sicilia. Vediamo un po'. Ah, a me mi hanno mandato su Marketplace, non riesco più a entrare, da Obè, è già da febbraio, purtroppo non c'è più pausa. Devo cambiare nome attivo, grazie per sapere la entrata, perché ho messo roba in vendita. Allora, dunque, c'è anche la musica, una cena frase di antipasto di terra, gnocchi alla sarta, scaloppini al vino bianco, più una bibita euro 15 euro. E cazzo è troppo, paroma, lo sai. Adesso. Quindi giro. Non lo so, ma non è cazzo, un piatto di... c'è antipasto, gnocchi alla sarta e scaloppini a vino bianco, più la bibita, quindi giro. È troppo. Bastano 10 euro, no? Sì, cazzo vuol dire io. Niente. Non lo so perché mi sono partito sul Marketplace. No, bloccato, anche a me. Se tu guardi, tu vedi sul Marketplace, c'è scritto Parigi e tu devi impostare Sassari, devi mettere la località per entrare, non è più come prima. Anche io pensavo che mi avevano bloccato, invece no. Io quando schiaccio sulla casetta, mi dà la casetta in bianco e nero e mi dà, cioè grigio lo sfondo, è una X, cioè una slash, così che taglia la casetta. Recessione passate, controllo richiesta 10 aprile 2024, controllo richiesta 23 febbraio 2024, ma dov'è che devo andare a mettere boh? Allora, aspetta, allora tu quando vai, aspetta un attimo, allora, vai su Facebook e vai su cose di market, apri market e ti esce, a me mi esce, il coso la... vedi, mi escono tutti i prodotti che mettono in vendita, però c'è scritto su coso Parigi e dopo ti esce il coso della capitale città, tu devi mettere Sassari e poi ti esce tutto il mercatino di Sassari. No, ma noi abbiamo messo niente qua, io c'ho lo mio, tu c'è la lente e boh, scendi giù, c'è scritto recessioni, poi passate, controllo e basta, non vedo un cazzo, non venuta. E dove vado, Manuè? L'ho veduta, c'è un omino piccolino nella rete. Lì devi scrivere la tua città. Schiaccio la rete, così è. Stiamo controllando la tua richiesta di cessioni. Cosa vuoi acquistare? Devi scrivere, sai, una cazzata niente, e poi te lo fanno riaprire. Ecco, io ho messo Sassare. Vediamo un po' di niente. Stiamo controllando, non mi dà tenuta, Manuè, niente. Sempre punto di partenza. Allora ti hanno bloccato, perché a me mi fa così? Mi hanno bloccato sì, non ho capito perché. Ma sono da più di 2 mesi così, eh. Io penso anche adesso devo cambiare nominativo per rientrare lì. Non lo so. E poi devi cambiare, no, devi cambiare anche la l'email, penso, perché l'email è compresa con, tu fai entrare con cose di Facebook. Di mille o me, ma fai a ciappara dopo. E ne fai una nuova. E quindi devo uscire da Facebook prima, così la disinstallo prima. E beh, devi disinstallare e farti fare un account nuovo. E tu mi usi un po' qua. Oh, che casino per te. Ui. Accendi a un'altra, esci a vedere. Allora. Sempre questo mi esce, ma nessuna della pressione del precedente. Mi sa che cazzo di giornuzzo. Crea una nuova account, giusto? Sì, devi fare così. E poi vedere, può passare che te l'hanno bloccato questo coso qua. Iscriviti a Messenger, che se me la puta a me. Dunque, usa con Facebook senza Facebook. se mi cambio la data, gioco più giovane. Progetto mio. Se cambio la mia data di nascita, va bene lo stesso. E basta che è diversa, basta che rimane diversa. Venga, vediamo, lasciamo sul 17 aprile, dai. Mettiamo che non quando mettiamo. Allora, mettiamo che sono nato nel 67, ok, posta. E dopo, qual è la tua data di nascita? 17 aprile 67. Ok, avanti. Qua sei uomo, donna, beh, uomo, ok. Vai avanti, vediamo cosa mi c'è pure. Dopo il cellulare, casino che mi butti, è sempre per te. Aspetta un secondo, Tony. Ciao Tony. Eia. Buonasera. Ciao Matto. Passa a Jäger. Cosa? Aspetta, ci siamo visti poco fa. Aspetta un attimo qua. Cos'è che sta sbagliando? Ti è piaciuta l'amica mia, la peluccia mia? Chi è quella? Quella è Monichetta mia. Ah, Gabriele, molto cannuta. Aspetta mio figlio un po'. Non si fa mai che mi tiene un filo. Ma tu mamma mia. Ho capito. Hai visto che bella che è? Sì. È una bella donna, dai. Ehi, avanti, Manuè. Non si tocca al microfono. Mamma mia, che pestifero. Sì, ho visto un tipo, però non avevo capito che era... Non avevo capito. La mia compagna, ci siamo già 12 anni con lei. Se riesce pure a pure questa cosa che conferma quei tre dati, non ci capisco più niente. Numero e codice. E la vedo sia da solo, non mi avvento più. Come era numero e codice? No, non ricordo più. Gabriele, cosa si vende? Mamma mia, un pestifero. Allora cominciando a camminare, mamma mia. Yeah. parte mi tiene tutta la merda, ti viene. E te mi devo fare tutto da capo qua. Perché intanto non riesce più a entrare. No, non sono entrato qua. Dentro mi fa entrare, no, devo capire tutto, devo cambiare. Adesso disinstallo Facebook e lo reinstallo diversamente. Qui non c'è qualche di tutto il Facebook, c'è scendo in capo. Ma sentendo chissà, ho sentito tutto niente, cazzo può arrivare forte. 8-9, Santiago. Proprio 10 mi sta arrivando, mi dico. E c'è un po' di propagazione. Come uno mi è arrivato 9.30, dal sistema da fianco, senti sul laterale, detto magari 9.30 mi è arrivato. E poi se vai da 40 nessuno sai cazzo propagazione me e vado laterale. È un po' di casino, ma un po' di casino. Stavo dicendo. Ma mi sono impiegato. Ma tu che antenna c'hai? La Venom, cosa c'hai di antenna? Sì, la Venom. Se mi trentavo è la Venom. No, no. Quella corra di antenne piccoline. Sì, a rinforzarmi. Sono ripini praticamente, tre radialini, ma no, va un casino bene. Che va bene? Va a 60 euro, 50 milioni, no, ce va bene. Oggi troppo vanno a prendere due. Adesso vediamo se riesco a prendere un'altra, perché non sa mai più il momento. Vedo che è sicuro che a me però il faro manco si muove millimetro. Ci ho messo roba di 8 tiranti, a voglia, è perfetta. Però la tenda si muove peggio, la lì si pacca, concentrare lo zino, per recuperare giù un'altra. Non sa l'ordine già. Sì, capo, io ho messo la cosa, la... mi ha aiutato un amico a metterla, perché io sul tetto non... a sabbi, mi viene un po' male, poi mi ha aiutato un amico e... la GPS dell'assilio, tipo la Energy, una cosa del genere. E beh, tu pesi poco, quindi facilitivo, è stato bene, passa un altro più legno, più leggero. Ma infatti è salito lui, è salito, io no. No, ma non è, no, non mi mette euro, insomma, è commentato. Però, siccome non c'è una scala, che tanto, non sono tanto convinto, allora non ci salgo per quello, capito? E beh, se ti invitare il video, dai. Io mi adessi, io sono piano terra, ho fatto un plinto, due quintali e mezzo di calcestruzzo con un affogato bene dentro, e profondo metà 60 centimetri, con tanto ci metto di tre, ma crudo non muove, non paro. E poi ci ho infilato un altro paro con due bei mulloni passati da una parte all'altra, e un po' di vitato, dai. Una moto leggera quella, tipo, perché la mia è leggera, però pesa un po' di più della Energy, cioè della, non della Energy, ma quella della Venom. E va bene, ma la mia rende, capo, la mia rende bene, la verità. Ebbene, oggi ho un bambino, ho preso tutto il sasso nel cuore, da 12 anni ce l'ho tutta aperta io, 10 anni dopo non. Io vedo i palazzi, quelli che sono più di Gianni Doppio Ru. Io ho tutto aperto quella zona lì. Tu a casa mia ti metti dove c'è davanti il cancelletto, guardi già se vedi già la zona di Gianni. Allora vedi anche a me, vedi. No, ci sono gli altri, penso quella parte tua. Non la vedo lì. Comunque Gianni infatti ne arrivo forte, io la posso sparare. Vabbè, pure io gli arrivo 9.60 a Gianni. Non sta neanche più entrando. Abbiamo fatto una prova con un apparecchio che c'ha più smitter, arriva a 9.60 da Gianni. E arriva a fotoscala. Quindi. Oh, ho cancellato Facebook, adesso me lo sono riinstallato. Adesso devo rimettere tutto da capo. Santa Zoli mia. No, vabbè, come si dice? 9.60 è fondo scala proprio, 9.60 io gli arrivo. faccia, vedi? Come ti sei pulendo in bocca? Gabriele, vieni qua! Sì, da quando ho messo sulla, cioè avevo messo sull'antenna, prima ho messo la rigo e non andava male, la verità. Poi ho messo la, ho messo questa qua, a questa che fa un attimo la pigliano di fino, che decido. Metto la chiave a rigo qua, e infatti l'ho tutta modificata, messo domani la piacerò un po', vediamo. La mia comunque non andava male, la mia andava abbastanza bene, anche perché era del modello più vecchio di qual era. E ti posso dire che l'ho tolta perché non ho messo la 5 tappi, capo, non ce l'ho mai avuta. Ho detto che non metto la 5 tappi, quella che c'ha tre radiali, però sono lunghi i miei. Se trovo un'antenna più grossa me la metto, dai, adesso vediamo. Ma poi non c'è nessuna frequenza, va bene anche questa qua. Sono che comunque la metti molto baracchino, tanto sono in negozio. Avevo un po' di gare, non puoi fare nessuno, va. Allora qua arrivi 9.30, non se non arrivi piano, eh. Qui in questo smitter arrivi 9.30, Vabbè, siamo a linea d'aria, siamo vicino. Ciao, credo via. Ciao, credo che siamo vicino. No, non è che cavolo, non siamo tanto lontani. Non toccare il pulsante. E vabbè, toglilo tu, metti la manina a me. Oh, ecco, cazzo. Praticamente invece c'è la buti-buti che c'è quel palo enorme che è un po' di ripetitore. Eh? Io con un'unità qua lo vedo già. Che cazzo, allora vedo. Sicuramente da sul tetto io ti vedo. Ti vedo tranquillo. Vabbè, c'ho il palo di chiedere parte da terra, capito? Sei vinto. Poi ci sono gli altri, giustamente. E non si no. Dalla zona tua a casa dove sono io, non è che riesci a vederlo perché non è che sia così grosso, capito? Se era più grosso si vedeva, ma così occhio nudo, non penso. Io l'unico problema che ho è che ho questo palazzo a 5 piani, che da una parte un po' mi ostacola verso quella parte là, verso. Però alla più fine là ci siamo. Sicuramente sono aperto molto dalla parte di quella dimostrazione di Ottava, quella parte lì, sono molto aperto, sono tutta l'altra parte, Porto Torres un po', però dall'altra parte c'ho questo palazzo a 5 piani che un pochettino, magari un pochettino ostacola. Vabbè, dai, ti fai sentire anche tu. Certo, come di prima, proprio pio pio con la tele che c'avevi, adesso è migliorato 100.000 volte. Ma c'è una tela come si deve adesso. Se non va adesso, ci butto tutto. Però vedi, inserendo locale, tu arrivi 7.7, mentre già ti inserite locale 7.9, più forte di te. Cappa. Vabbè, però... Siamo lì, dai. Siamo lì. Vabbè. È più diretto verso di me, capito, per quello. Già, ma se lo metti normale, minimo sarà 9.30, magari già nel 9.40 e più, molto più forte di me. Ma quello è per la posizione. Ripeto, è che c'ho questo palazzo che mi copre, se no direi che ti erano quasi uguale. Poi sappiamo che Gianni già non esce liscio, lo conosciamo, ma... Non è che sia meglio che sia a me. Guarda, mi metto i guatti a zero. Guarda, padre, con i guatti a zero. Prova, fai uno e due scatti a vedere, dai, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gabriele, sei fermo, 1, 2, 3, 9, 3, aspetta, batti al massimo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, adesso si è aumentato a 7, a 8, però Gianni c'è più forte, perché Gianni già lo sai, non esce liscio, c'è sempre quelli 38. No, non penso che sia così, ma fa molto di meno. Vabbè, tu c'hai quello lì comunque, poi se ne dà 200, 250, ok. esce, ma è normale come esce, usciamo noi, io non c'ho niente per esempio, capito? 5 watt, normale, certificati adesso sono. Allo strumento, quindi, Gabriele non toccare nulla, 5 watt sono. Normale, normale, normale. Io lo stesso sono normalissimo. Sono 5 watt pulisci pulisci. Ok. Quindi, faccio un po' di abbasciarmi, anche se abbascio do. Ecco, adesso ho abbassato, quanto sono? 25 così, ma sei fortissimo però. Ehi, vabbè. Ecco, adesso ho messo 5 watt, era 2 watt, e vabbè. Già va bene lo stesso, non è che ci sentiamo poi. E qua io quando faccio questo locale devo sudare tutto, se no no, è un casino, non riesco a sentirmi, mi sento no, talmente forte che devo spegnere. Ecco, no, io sto facendo un po' finito, sto accendendo, perché è manchettare a casa, quindi... quell'altro, passa il tempo, poi ti arrivi 7 e mezzo, 8 ore 4, cosa attendi? Non vedo nessuno, a volte accende, non c'è nessuno, però sotto mattina spegni tutto. E qui, dovremmo ancora bene. Già c'è qualcuno, intanto. Ma lo baracchino deve sembrare acceso come io. Già c'è alcune ore. Vabbè. Ma Emanuele che si è cacciuto? Emanuele! Emanuele dice cuccato. Senza avrei dubbio che sei cuccato. Me? Ah, ma si è fatto male. Ma chi non sta il fermo? Ah, però non sta il fermo. Sì. Come ti vai a venire? Cosa va a farmi? Comincia a camminare e sei controllato. E non gridare. Tanto, mi sposto un attimino, dai. Lascia acceso qua un attimino, mi sposto in cucina. Mi devo andare la cosa. Ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao. Briciola, tutti dormiti siete. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola? Attenzione, binario 10, cambio.